e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Allora, ti dico già che ti vedo elegante questa mattina, ma seconda osservazione da fare, come al solito siamo venute vestite più o meno dello stesso colore. È vero. Lo raccontiamo agli ascoltatori che abbiamo questa sintonia a distanza la mattina quando ci vestiamo prima del lavoro. Adesso abbiamo questo colore che... un po' aragosta, corallo. Sì, che fa risaltare un po' questa bronzatura ormai che spenta. Esatto. Che noi... è già tornato dirompente il giallo milanese in faccia. Verdognolo. Esatto. Comunque dobbiamo mantenere lo stile alto anche nei prossimi giorni, perché questa è la settimana della moda qui a Milano. Parte proprio domani, no? Il 26 di settembre, che, quindi 6 giorni pieni, 71 sfilati, decine e decine di eventi che ci accompagneranno, modelle bellissime. Quale stilista ti ha chiamato a sfilare? Guarda, io mi imbacuccherò, perché tu quando esci che sei sfatta, no? Dopo una giornata di lavoro, e incontri 10 modelle. Un capannello di modelle bellissime. E allora uno si infagotta e scappa. Esatto, sai cosa possiamo fare? Darci alla fuga, lo faremo domani sera? Sì, perché andiamo a Genova. Andiamo a Genova. Allora, già mi penso alla nostra seratina genovese. Esatto, potremmo goderci un abbigliamento casual, sportivo, per cui nessuna competizione con delle modelle in agguata, al limite un po' di marinai in circolazione, e quindi saremo più tranquille. 800 24 00 24, perché vi do il numero verde, perché voglio chiedervi come vi sentite in questo lunedì e in vista della nuova settimana. Saranno giorni di routine, da guardaroba sportivo, da abito delle grandi occasioni, magari il vestito giusto da indossare perché vi aspetta un colloquio di lavoro. Attenzione, perché anche di lavoro parleremo oggi nella seconda parte del programma. Potete però anche raccontarci, senti un po' Deborah, come vi vestite per mascherare qualche chiletto in più. Ad esempio, puntate più sul colore, ci sono dei colori che smagriscono, ad esempio il nero, ma leggevo, ecco, però anche il blu è che smagrisce e non invecchia. Ah, ottimo. Oppure sul modello, raccontatecelo intanto che voi vi attivate. Io vi anticipo che sarà con noi Franco Berrino, con lui parleremo anche della sindrome metabolica, e quindi occhio alle misure, ai valori. Ci siamo ispirati un po' a Donald Trump, sai che ha presentato, è andato dal dottor Oz, sì, e ha raccontato un po' la sua cartella stampa. La trasmissione, perché va in onda la mattina presto quando mi alzo su uno di questi canali, il 31, il 32 Real Time, non mi ricordo dove, e quindi lo vedo. Ecco. Però non ho visto la puntata con Trump, adesso l'aspetto. Allora, intanto salutiamo già di là dal vetro, c'è il dottor Berrino che ci regalerà delle pillole video, e quindi le nostre pagine di Cuore Denari saranno già prese d'assalto. E io intanto vado alla mia finanza. E facciamo un piccolo focus approfondito questa mattina sulla settimana finanziaria che si apre oggi, e ricordiamo che venerdì abbiamo avuto una giornata molto negativa per i mercati europei. C'è stato un tonfo, in particolar modo quello di Deutsche Bank, ha perso circa 8 punti percentuali alla borsa tedesca sotto il peso della richiesta da parte delle autorità americane di 14 miliardi di dollari per chiudere una causa legata ai vecchi mutui subprime. Abbiamo anche un altro rebus, quello sui tassi americani, dopo che l'inflazione americana è cresciuta oltre le attese. Il dato è stato diffuso venerdì. Tutto questo ha spinto di nuovo al ribasso gli indici azionari europei. Ribadisco, venerdì scorso. Oggi invece l'apertura è stata all'insegna del rimbalzo, più 1,35% a Parigi, più 0,87% a Francoforte, Londra più 1,20%, Milano più 14%. Ma chissà quali saranno i temi da tenere sotto i riflettori questa settimana. Oltre alla riunione della Banca Centrale Americana, la Federal Reserve, possiamo dare anche qualche indicazione su i cosiddetti titoli caldi. Naturalmente non mi assumo io la responsabilità di dare queste indicazioni, ma lo facciamo fare a un trader professionista. Lo salutiamo, Luca Di Scacciati, è anche analista finanziario di investire.biz. Di Scacciati, buongiorno e ben ritrovato. Buongiorno Deborah e buongiorno a tutti i radioascoltatori. Allora, peraltro Luca Di Scacciati, l'ho chiamato anche perché credo che sia tempo di fare un po' il punto della situazione post-Brexit. È stato il nostro uomo della notte in quel frangente, ti ricordi, avevamo fatto un super speciale per seguire quell'evento e soprattutto per gettare così un po' uno sguardo anche a quello che sarebbe accaduto a seconda del risultato sui mercati finanziari. Come ricorderete, grande caduta delle borse nei giorni immediatamente successivi al risultato risultato a sorpresa di quel referendum, e poi invece c'è stata una grande ripresa, un grande recupero, come se quel problema fosse stato accantonato. Adesso con Luca Di Scacciati ne parleremo. Prima di tutto vorrei fare un punto su questa giornata. Di Scacciati, oggi le banche per esempio sembrano molto più tranquille di venerdì scorso. Infatti è davvero interessante come situazione quella attuale, nonostante gli attentati anche che ci sono stati, i presunti attentati che ci sono stati a New York, le borse reagiscono molto bene questa mattina, con l'indice italiano che sta veramente avendo delle performance notevoli dovute proprio ai rimbalzi delle banche. Chiaramente la questione Deutsche Bank ha pesato tantissimo venerdì, e chiaramente il nostro listino ha subito un forte ribasso, dato che la presenza dei titoli bancari è veramente alta sul mercato italiano, ma sembra che tutto stia rientrando. Infatti già il Dipartimento di Giustizia americano ha già chiesto di fare a Deutsche Bank una controproposta su un'eventuale multa da pagare. Per ecco, transare, la stessa cosa che a marzo scorso è successa a Goldman, quindi sta già rientrando tutto quanto. Allora, abbiamo due stacchi di conti di cedole quest'oggi a Piazza Affari. Voi direte, sono due, non contano tanto, in realtà sono due società di peso. Esatto, perché abbiamo sia Eni che STM che staccano il dividendo, quindi questo rialzo di questa mattina potrebbe essere anche di più, perché come sappiamo quando vengono staccati i dividendi il listino sconta lo stacco del dividendo, quindi davvero una ripartenza in questo lunedì davvero importante per i mercati, sintomo proprio anche di una stagionalità che dovrebbe tornare positiva, dato che stiamo entrando proprio in un periodo in cui statisticamente le borse cominciano a salire per poi fare i massimi verso la fine dell'anno. Quindi un dato molto interessante. Allora la ritroveremo qua verso la fine dell'anno per vedere se anche quest'anno i mercati hanno avuto ragione, appunto, e seguiranno queste indicazioni che statisticamente parlando appunto sono consolidate. Esatto. Allora, per chi già lo chiede, Eni oggi stacca un acconto di dividendo di 40 centesimi, STM 0,6 dollari americani, quindi in euro, non lo so, sarà 10 saranno 10 centesimi, non lo so, adesso esatto. 0,8, 0,9, e il peso sull'indice è dello 0,44%. Domani e dopodomani riunione della Federal Reserve, Luca Di Scacciati, mercoledì che cosa annuncerà Janet Yellen, se ha intenzione di annunciare qualcosa? Esatto, Janet Yellen, io ho proprio l'impressione che sia come un elefante in una cristalleria, perché tenete presente che dai minimi del 2009 le borse americane hanno segnato oltre il 200%, quindi è molto probabile che non faccia niente, proprio perché se vogliamo usare un detto, squadra che vince non si cambia. Un po' di scuse per non alzare i tassi di interesse ci sono, per esempio il fatto che di recente si siano creati solamente 150 milioni di mila posti nuovi di lavoro al posto dei 200 mila attesi, è già una buona scusa per non fare niente, e questo potrebbe anche far segnare nuovi massimi alle borse, certo, proprio in virtù di questo trend che sembra essere cominciato. A malapena un minuto di Scacciati per farle dire cosa è successo nella fase post-Brexit per i mercati, lo vogliamo raccontare perché ci sono dei titoli che sono cresciuti molto da quella fase, curiosamente, e poi magari i titoli caldi, le società da tenere sotto controllo questa settimana. Ecco, allora è molto interessante la questione post-Brexit, perché se vi ricordate proprio in questa trasmissione avevamo detto che poteva essere un'opportunità d'acquisto soprattutto per quei settori bistrattati in quel momento come i bancari. Se andiamo a prendere per esempio dei titoli come Intesa, Unicredit, vediamo che hanno segnato performance positive dal 29 di giugno in avanti, quindi diciamo che la Brexit è stata assolutamente riassorbita, ed in particolare vediamo che l'indice inglese è salito del 13% da quel giorno, contro una sterlina contro euro che invece ha perso solamente il 10%, quindi la bilancia diciamo è assolutamente positiva. Diciamo che la situazione si è stabilizzata rapidamente. Due storie della settimana? Ma allora noi siamo concentrati appunto sui mercati, sui mercati azionari, proprio perché sembra tutto quadrare, le borse non hanno più paura degli attentati, oramai sono qualcosa che non influenza negativamente più i mercati, è brutto da dire perché è un po' cinico, esatto, come argomento, il solito cinismo. Però siamo concentrati sui mercati azionari perché siamo in attesa appunto soprattutto sui mercati tipo l'Italia, che hanno subito negli scorsi mesi, sono quelli che sono rimasti un po' più indietro rispetto agli altri, potremmo avere delle belle sorprese a Rialto. Quindi nessuna storia nello specifico, ma il mercato azionario nel suo complesso. Grazie a Luca Di Scacciati, ci sentiamo presto. Buona giornata. Viabilità e torniamo subito. Cuore e denari. Ed ecco, ci siamo tornati insieme per la rassegna stampa di Cuore. Vi segnalo che si apre oggi la settimana di prevenzione dell'invecchiamento mentale e grazie a questa bella iniziativa, che tra l'altro ha anche l'alto patrocinio del Ministero della Salute, è possibile ricevere una valutazione gratuita, una sorta di fotografia delle nostre condizioni cognitive da una squadra di specialisti, una squadra formata da psicologi, neurologi, geriatri, che sono pronti a suggerire consigli utili e scientificamente provati per mantenere il nostro cervello giovane e attivo negli anni. Quindi vi do subito il sito dove potete trovare tutte le informazioni: www.assomensana.it. E in linea abbiamo il presidente e ideatore di questa bella iniziativa, ormai giunta alla sua nona edizione, il professor Giuseppe Alfredo Iannoccari, neuropsicologo, docente all'Università Statale di Milano e presidente di Assomensana. Professore, buongiorno e bentornato. Grazie Nicoletta, buongiorno a lei, a Deborah e a tutti gli ascoltatori. Buongiorno. Allora, buongiorno. Professore, il cervello è un organo plastico, se ce lo facciamo amico saprà ricompensarci, ci darà buone soddisfazioni. Certo è che dobbiamo, come si dice, cambiare un po' testa, atteggiamento nei confronti della cura della nostra mente, cioè invece che preoccuparcene temendo sempre il peggio, dobbiamo iniziare ad occuparcene quando ancora ha senso farlo. Basta poco e soprattutto non è mai troppo tardi. Professore Iannoccari, ci dia subito delle buone speranze. Certo, di cos'è che devo parlare, Nicoletta? Ecco, le consiglio simpatico. Ma lei lo sa che c'è un sito dove lei può trovare della gente, però lei deve trovarne uno bravo, bravo, uno bravo. Ecco, assomensana.it. Nicoletta, è una battuta che mi è venuta per la simpatia nei vostri confronti. No, in realtà io sono stato molto attento e anch'io ho la cravatta con dei colori corallo. Per cui anche lui vuole. E ricordo bene. Vuole essere un pochino. Un po' in sintonia con noi. Per dire che anche lui è in sintonia, è complice. Esatto. Allora, occupiamoci del nostro cervello per non preoccuparcene in futuro, no? Questo è un po' il messaggio della settimana, professor Iannoccari. Sì, da 9 anni noi veicoliamo il messaggio attraverso la settimana di prevenzione che è possibile intervenire a tutte le età per mantenere una buona efficienza mentale. Fino a 50 anni fa si pensava che questo non fosse possibile, che non si potessero apprendere nuove informazioni e che il decadimento cognitivo fosse inesorabile. Per fortuna adesso sappiamo che è diverso. Ovviamente il cervello invecchia come tutto il resto dell'organismo. Già a partire dai 28-30 anni ogni giorno lasciamo sul campo circa 100.000 neuroni. Questo di per sé non è un numero eccessivo considerato che ne abbiamo 100 miliardi, ma ogni anno, ogni volta che spegniamo le candeline, perdiamo l'1% di efficienza già a partire dai 28-30 anni. Ciò significa che a 50 anni abbiamo già perso un quinto delle nostre capacità e così via. E infatti, è bello che io ho detto, ci tiri un po' sul morale, sì, no? Sì, già sì, che sì, c'è la settimana della moda e sono tutte le modelle bellissime e uno già si sente uno straccio. Mm-hmm. In più mi dice che dopo i 50 anni perdiamo già un quinto del nostro potenziale rimasto dietro di noi. Continuiamo con queste notizie che tirano sul cuore, professor Iannoccari. Allora? Ma adesso lo tiriamo sul cuore, perché è possibile intervenire. Prima abbiamo parlato, no, di riserva, di gruzzoletto, eccetera. Bene, se noi mettiamo a frutto le nostre capacità, le nostre competenze, facciamo crescere, creiamo degli interessi, cioè facciamo in modo che il nostro potenziale, se è 100 per esempio, lo possiamo portare a 110-120. Quindi ogni buon investimento fa al caso nostro. L'importante è, la parola d'ordine qual è? Curiosità. Curiosità. È importante, è importante apprendere sempre nuove informazioni, sempre qualcosa di nuovo, perché questo è il modo attraverso il quale il nostro cervello si arricchisce, si stimola, si tonifica e si rende utile quando noi glielo chiediamo. Quando vogliamo un'informazione, ecco che arriva pronta. Se invece ci adagiamo, facciamo sempre le solite cose, allora questo lo annichilisce, lo svilisce, non lo rende attivo e lucido come vorremmo. Ecco, la settimana di prevenzione vuole veicolare questo messaggio, che è importante mantenere sempre attiva la nostra mente. Allora, professor Iannoccari, lei ha organizzato una sorta di tabella di allenamento, ce la racconta rapidamente? Sì, allora, innanzitutto iniziamo da quello che stavamo dicendo di attivarci, di alzarci dal divano e di fare qualcosa di utile. Cosa potremmo fare di utile? Innanzitutto suggerisco di cambiare le solite abitudini, apprendendo qualcosa di nuovo, magari utilizzando la vicinanza dei nipoti o di amici e parenti, ad esempio aprendo un profilo su Facebook, utilizzando i social network. Quindi bisogna diventare social. Bisogna diventare social, perché? Perché ogni volta che noi acquistiamo una nuova procedura è come se in una città costruissimo nuove strade. Mm-hmm. Questo consente alle rete dei neuroni di attivarsi e di creare nuovi collegamenti, per cui si arricchisce. Poi, ovviamente, una volta che siamo abituati a fare quel tipo di attività, cambiamo. Magari apriamo un profilo su Instagram e così via. Questo è il primo esercizio, quindi. E poi che cosa succede? Consente anche alle persone di mettersi in contatto, di relazionarsi con altre persone, a prendere nuove informazioni. Certo, ma allora apriamo il social, ma tutti i giochi, scacchi, sudoku, parole crociate, esatto, che per anni ci avete detto, 40. Ecco, attivatevi, giocate, mettete un allenamento per i neuroni che vanno un po' in palestra, vanno ancora bene. Vanno ancora bene, ecco, ma bisogna variare la parola d'ordine è variare il gioco. Se noi siamo abituati a giocare a scala 40 piuttosto che a briscola e facciamo sempre questo gioco, la stimolazione è veramente minima. Bisogna diversificare anche lì. Vedi, che ti ha un po' copiato il professor Iannoccari, quindi diversifichiamo. Curiosità, sono consigli molto semplici, professor Iannoccari, però ecco, a volte le cose semplici non le facciamo perché ci diciamo tutto lì, basta poco per mantenere il nostro cervello in forma. La curiosità, variare, quindi variare gli stimoli. Se abbiamo il fastidioso fenomeno della parola sulla punta della lingua, ad esempio, che ovviamente non appartiene alla categoria dei giornalisti radiofonici. Questo come non è vero. Ecco. Quindi, professor Iannoccari, ho 10 secondi. Allora, sì, scrivere per 2 giorni consecutivi tutte le parole che vengono in mente che iniziano con una lettera dell'alfabeto, quindi inizia con la A. Voi compito doppio, quelle che iniziano per D di Debora e N di Nicoletta. Professor Iannoccari, grazie, ci sentiamo presto. A presto. Buona presto, giornata. Buon lavoro, Giornale Radio, tra pochissimo. Io vorrei un'Europa fondata sul lavoro. E tu come vorresti l'Europa? Ogni giorno alle 14 alle 21.30 Europa 24 ti aiuta a costruirla, informandoti in tempo reale sulla situazione politica, economica e culturale dell'Unione Europea, per essere davvero cittadini d'Europa. In collaborazione con Euronet Plan. Dal lunedì 26 settembre, dalle 9 alle 10:30, torna Mix 24, con i faccia a faccia, le inchieste, i gialli della storia, i dentro la notizia di Mario Secchi, Salamini di Pietrangelo Buttafuoco e poi i venerdì speciali con Alessandra Fiori, Alessandra Cravetto e la musica di Franco Schipani. Mix 24, di Giovanni Minoli, dal lunedì al venerdì alle 9, su Radio 24. Cuore e denari. Lavoro di noia, lavoro di fame, lavoro d'artista, lavoro normale. Eh sì, l'avrete capito, oggi a Cuore Denari ripartiamo parlando ancora di lavoro in un paese che fa fatica a trovare un equilibrio fra domande ed offerte, in cui ogni mese si consuma la triste guerra delle cifre. Quanti nuovi occupati ci sono? con quanta disoccupazione dobbiamo ancora combattere. Ed è vero che ci sono aziende che fanno fatica a trovare certi profili. Quali opportunità ci sono per i giovani? A queste domande che ci assillano si aggiungono anche gli episodi di cronaca con le morti sul lavoro, tanto che è stato indetto uno sciopero nazionale di un'ora da parte della categoria dei metalmeccanici mercoledì 21 settembre dai sindacati di categoria FIM, FIOM e WILM, dopo le ultime tre tragedie di questi giorni, il caso di Piacenza e quelli dell'Ilva di Taranto e dell'Attac romana. Pensate che ci sono stati circa 500 lavoratori morti mentre lavoravano, la stima dall'inizio dell'anno, e naturalmente i rappresentanti di questi sindacati hanno detto, e noi condividiamo, è assolutamente una situazione inaccettabile. Così oggi ci è sembrato utile tornare sul tema del lavoro, rifacendo magari stamattina un vademecum sulle questioni legislative di maggiore attualità. Ricordiamo che stiamo facendo i conti con una riforma di discreta portata, il Jobs Act, stata varata, come ricorderete, dalla legge delega 183 del 2014, e poi ci sono stati, a partire dai primi mesi dell'anno scorso, i decreti appunto attuativi, i provvedimenti attuativi, a partire da quello del marzo del 2015 sulle tutele crescenti. Tutto questo perché domani esce anche la nuova guida I tuoi diritti con il Sole 24 Ore, proprio sul tema il lavoro, nuovi contratti, tutele, obblighi, controversie. Vengono affrontati proprio alcuni aspetti particolarmente delicati del rapporto di lavoro, come gestire eventuali liti, ricorsi e contenziosi. Ricordo, per essere corretti fino in fondo, che la guida è in edicola, sì, con il Sole 24 Ore, ma deve essere pagata a parte, ci sono 50 centesimi in più oltre al prezzo del quotidiano. In ogni caso, se voi avete da raccontarci qualche caso interessante per quello che riguarda il vostro rapporto di lavoro, noi siamo pronti a ricevere appunto le vostre chiamate all'800 24 00 24. Stamattina c'è con noi l'avvocato Francesco Rotondi, partner dello studio Lab Law, specializzato in diritto del lavoro. Benvenuto e grazie. Benvenuto. Buongiorno a voi, grazie dell'invito. Invece noi salutiamo anche un po' tutti gli autori della Guida del Sole, che sono tutti amici di Cuore e Denari, l'avvocato Giampiero Falasca, Alessandro Rottaporta, Maria Rosa Gheido e tanti altri ancora, per cui così ci sembrava utile anche è carino da parte nostra segnalare. Quanto anche siamo carini, è dai. Vero, esatto. Allora, avvocato Rotondi, prima di così magari leggere insieme a lei, sfogliare questa guida molto interessante che esce questa mattina, la domanda che io le vorrei fare, visto che lei conosce soprattutto particolarmente bene questo tema dal punto di vista delle aziende, in questo momento le aziende che sono pronte ad assumere, noi sappiamo che ce ne sono tante, che fanno fatica a reperire sul mercato i profili che necessitano loro, che cosa vogliono sapere in particolar modo? Di che informazioni hanno bisogno? Beh, devo dire che l'esigenza primaria, che non è nuova, è quella della chiarezza. E quindi le aziende oggi vogliono sapere esattamente qual è il sistema giuridico e sanzionatorio che possono applicare ai nuovi dipendenti e ai nuovi assunti, e quelle che sono poi la materia dei decreti attuativi che si sono avuti nel corso dell'anno, ovvero le politiche attive, gli ammortizzatori sociali e diciamo un po' la gestione della relazione contrattuale. E quindi io direi che il primo punto è quello da individuare, è una data fondamentale, che è il 7 marzo 2015, ovvero la data nella quale è entrato in vigore il cosiddetto contratto a tutele crescenti. Quindi le imprese devono sapere che tutti coloro che verranno assunti dopo quella data con un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, ecco, questo è anche un tema importante, avranno un sistema sanzionatorio da applicare ai propri dipendenti nel momento della risoluzione del rapporto, diverso da quelli che sono già stati assunti. Abbiamo il contratto a tutele crescenti. Io ho sempre contestato questa definizione, perché la disciplina di quel decreto si definisce unicamente quelle che sono le sanzioni, cioè nel caso di licenziamento cosa accade. Esatto. Allora, più hai lavorato per questa azienda, più alto sarà la remunerazione, l'indennizzo che ti verrà riconosciuto, appunto, se il licenziamento sarà fatto secondo determinate modalità, ovvio. Quindi le aziende avranno la possibilità di sapere a priori quella che sarà il costo della risoluzione del rapporto. Questa è la più grande modifica e novità introdotta con il Jobs Act in generale. avremo un sistema di risarcimento, di indennizzo collegato all'anzianità aziendale. È chiaro che questo sistema non lo possiamo apprezzare oggi, lo apprezzeremo nel corso del tempo, perché è difficile pensare e non è auspicabile, infatti, che chi viene assunto nel 2015 a marzo sia già destinatario di un provvedimento, certo, di licenziamento. Però diciamo che questo è il de futuro. Mm-hmm. Per tutti gli assunti precedentemente a questa data, che sono oggi circa il 92-94% della popolazione al lavoro, invece ha ancora piena applicazione l'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, che ha un sistema, diciamo così, di indennizzo collegato un po' a una discrezionalità molto ampia del magistrato. Abbiamo dei parametri da 12 a 24 mesi, da 6 a 12 mesi, all'interno dei quali ovviamente il giudizio che il magistrato è chiamato a dare è figlio di tante valutazioni processuali. Quindi direi che l'imprenditore oggi ha una certezza, quella di immaginare non solo il costo di assunzione, ma anche quello che potrebbe essere il costo della risoluzione, certo, dei rapporti. E che non implica un licenziamento da adottare con leggerezza nel caso in cui l'azienda sia anche in difficoltà economiche, ma c'è appunto proprio un impianto diverso che certamente alleggerisce un po', se vogliamo, l'azienda nel contesto appunto del rapporto di lavoro che firma con un nuovo lavoratore, e non sappiamo appunto se possa essere completamente giudicato tutelante anche per il lavoratore. Sicuramente però c'è una certa chiarezza, almeno da questo punto di vista, per entrambe le parti. Devo dire che va verso due impianti importanti. Mm. Il primo è quello della chiarezza, l'altro è il tentativo di togliere la litigiosità, perché immaginare un risarcimento che già sappiamo nella sua entità massima quale potrà essere favorisce ovviamente una transazione. Mentre prima, immaginando una X così ampia fra un minimo e un massimo, è evidente che la transazione, certo, aveva molto meno possibilità di trovare sicuramente una marea di contratti a termine sono stati trasformati in contratti a tempo indeterminato secondo questi nuovi parametri, questi nuovi requisiti, e secondo me, quantomeno a giudicare anche della popolazione giovane che ho avuto modo di incontrare in questi mesi, devo dire che per loro si sono aperte delle opportunità che magari con la situazione progressa non si sarebbe aperta. Questo va detto con grande chiarezza, ecco, avvocato, almeno questo è il mio punto di vista. Io lo posso dire e lo dico anch'io con grande chiarezza, però devo dire che in realtà questa opportunità è fortemente collegata alla decontribuzione. Ah, certo. Cioè, un conto sono le regole dell'esecuzione del rapporto che non sono cambiate e le regole dell'estinzione. Però la spinta alla trasformazione dei contratti a termine in tempo indeterminato, la trasformazione delle collaborazioni con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato deriva anche dalla legge di stabilità fiscale, esatto, e contributivo, no? Questa decontribuzione forte. Che sono terminati, peraltro, decontribuzione che o è stata... No, è stata ridotta nell'importo. Esatto, è stata ridotta nell'importo. Quella è la spinta alla trasformazione. E d'altronde in un mercato del lavoro che stenta a ripartire, non solo per le problematiche italiane, ma per tutta una congiuntura internazionale che continua ad essere piuttosto complicata, la leva fiscale purtroppo in certi casi è l'unico modo per risollevare certe situazioni. 800 24 00 24, numero verde per le vostre domande. Se volete intervenire in diretta, siamo pronti naturalmente a rispondervi. Se avete stipulato di recente con un'azienda un contratto di lavoro a tutele crescenti e magari ancora avete risolto lì per il vostro problema del fatto che magari eravate a spasso e avete trovato lavoro, ma forse non avete capito completamente la dinamica di questo contratto, noi siamo qua questa mattina pronti a darvi anche due idee e due interpretazioni, dei chiarimenti. Detto questo, andiamo un po' al rapporto di lavoro nelle nuove modalità. Partiamo un po' magari seguendo l'ABC di questa guida che esce oggi con il Lessole, avvocato Rotondi. Il primo capitolo riguarda proprio i contratti di assunzione e direi che il primo momento di relazione fra lavoratore e datore di lavoro lo possiamo far risiedere nella consegna della lettera di assunzione, certo, che un datore di lavoro appunto dà al nuovo assunto. Che informazioni contiene questa lettera? Allora, le informazioni che contiene questa lettera sono le informazioni che identificano soprattutto la relazione, quindi la prima informazione è che tipo di contratto sto sottoscrivendo, quindi contratto di lavoro subordinato oppure un contratto diverso, subordinato a tempo indeterminato o a termine. Dentro, all'interno del contratto, della scatola generale, le informazioni importanti sono ovviamente l'inquadramento, come vengo assunto, quale contratto collettivo mi si applica, se mi si applica, e poi le mansioni. Le mansioni sono, direi, uno dei tratti fondamentali al quale sia l'impresa che il lavoratore devono fare attenzione, perché lì si identifica la prestazione, l'obbligazione contrattuale, che diventa un'obbligazione da una parte, ma un diritto, il diritto a svolgere quelle mansioni. Quelle che lei vede, avvocato, sono generalmente molto dettagliate, queste lettere di assunzione, oppure possono essere anche più C'è un cambio di prassi in questo momento, perché è evidente che il dettaglio oggi porta sicuramente... Può fare la differenza. Una volta si era molto meno dettagliati, molto più generali e con grandissimo riferimento al contratto nazionale. Oggi invece l'identificazione della prestazione, la cosiddetta job description, è molto più analitica. Significa il quadro delle mansioni, esatto, a cui devi... L'ambito della prestazione, perché poi dopo ci sono, nella evoluzione del rapporto, ci sono tanti momenti in cui si mette in discussione la prestazione di partenza con una prestazione magari d'arrivo, un mutamento delle stesse. E qua al fianco abbiamo il luogo di lavoro, altro tema fondamentale che tra l'altro oggi è alla ribalta, proprio perché si immagina il famoso smart working, per cui Ne abbiamo parlato tante volte, ci piace molto quell'argomento perché l'interesse è enorme, ma altissimo. Non tutte le aziende ancora sono completamente in grado di rendere questa modalità disponibile al lavoratore, e credo che pochi sappiano esattamente di che cosa si tratta lo smart working, perché alcuni pensano di essere al mare e lavorare, non è proprio così, esatto, questa è una pubblicità però quindi l'identificazione del luogo no. Mi fa così proprio smontare tutti i nostri sogni di gloria. Io e Nicoletta volevamo metterci questa postazione in Parco Sempione, che non è possibile per noi ovviamente. E direi che il luogo, a meno che non si tratti di questa nuova modalità di esecuzione, è altresì fondamentale, ma sempre perché poi nella evoluzione del rapporto ci possono essere delle modificazioni, quindi deve essere chiaro il punto di partenza, altrimenti non riusciamo a comprendere quali sono i miei diritti o addirittura i miei obblighi di movimento all'interno del rapporto. Certo. Richiamandoci un attimo, avvocato, alla questione del contratto di lavoro a tutele crescenti, nella lettera di assunzione deve essere specificato anche questo, nel senso, il datore di lavoro deve indicare, nel caso in cui il nostro rapporto si risolva entro un certo numero di anni, entro certe modalità, la indennità che ti verrà corrisposta sarà questa, eccetera, cioè deve essere dettagliato oggi questo aspetto? No. Non c'è nessuna obbligazione sotto questo profilo. C'è una legge nazionale in vigore. C'è una legge, esattamente come l'articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori, non è che veniva indicato nella lettera di assunzione. È chiaro che in un ambito di rapporto, io richiamo sempre questo principio, di correttezza e buona fede, due parole in più con il proprio dipendente si possono spendere. Quindi ormai diciamo che è passato più di un anno dalla introduzione di questo nuovo contratto e quindi non siamo in base... Non siamo all'interno di una novità ed è bene che i lavoratori, altro tema sul quale bisognerebbe insistere, sappiano e si interessino dei propri diritti. Per cui non troveremo mai delle lettere di assunzione che hanno anche l'indicazione di quelle che sono poi le tutele successive. Certo. C'è stato un momento, quello proprio a cavallo della introduzione di questo contratto, che qualche azienda indicava contratto di lavoro subordinato a tutele crescenti, ecco, però non è un'indicazione prevista. Mentre l'altro tema sul quale dobbiamo puntare la nostra attenzione è l'orario di lavoro, altro tema sul quale si discute da tempo. Ecco, all'interno della lettera di assunzione il lavoratore, per capire quali sono le obbligazioni che potrebbero essere anche foriere di sanzioni nel momento in cui non vengono osservate, deve avere l'attenzione al luogo, le mansioni, l'orario di lavoro. Dopo ovviamente la retribuzione. La retribuzione che è uno dei punti fondamentali, no? Del rapporto. Allora, avvocato Rotondi, qua già stiamo andando verso la chiusura, le sottopongo un paio di casi ai due ascoltatori, poi naturalmente per tutte le questioni in sospeso, se ci volete scrivere, l'avvocato Rotondi, così come tutto il nostro staff di esperti che lavorano a Serrande e Chiuso, appunto, ci darà una mano a rispondere ai vostri quesiti, che sul tema lavoro sono naturalmente sempre molto delicati, per cui anche affogarsi nel dare una risposta in radio è anche per noi una grande responsabilità, per cui vediamo se in termini generali riusciamo a farlo e poi magari per entrare entra nel dettaglio se volete in privato. Vincenzo da Firenze, buongiorno, velocemente, grazie. Buongiorno, colgo l'occasione per fare una domanda all'avvocato. Io sono un dipendente di un'azienda privata, di una multinazionale, ho un contratto a tempo determinato da più di 20 anni. La domanda è questa: se io dovessi decidere di cambiare azienda, per cui di fare un nuovo contratto di lavoro, devo per forza la nuova azienda mi deve fare per forza il contratto Job Act, o posso anche chiedere di aderire alla vecchia legislazione? Tutele crescenti, quindi al posto dell'articolo 18 sostanzialmente. Vincenzo, grazie. Avvocato, dipende dall'azienda o no? Dipende dalla sua forza contrattuale. Non c'è una obbligazione alla nuova disposizione normativa. Ha la società, l'impresa ha la possibilità di aderire ovviamente a questa nuova impostazione, ma se per mille ragioni se il contratto dovesse, è migliorativo a maggior ragione. Esatto, se per mille ragioni dovesse aderire ad una richiesta sua, in questo caso, o di un qualsiasi altro lavoratore, di mantenere il regime sanzionatorio precedente, può farlo, ma questo deve essere indicato però con nella lettera di assunzione. Pietro da Milano, veloce, grazie. Sì, buongiorno, io sono il padre di un datore di lavoro che vorrebbe licenziare la dipendente per riduzione di personale, però la dipendente si rifiuta di firmare il licenziamento. Vorrei vedere. Ed è Jobs Act. Pietro. Ecco. Avvocato Rotondi, qua certo, la lascio a lei sta patata bollente. Beh, direi che c'è un po' di confusione, perché il dipendente non deve firmare il licenziamento. Se il datore di lavoro intende licenziare, adotterà il provvedimento, che è un atto unilaterale, consegnerà la lettera al dipendente che poi si determinerà ad impugnarla o meno. Ah, quindi allora chissà perché si sofferma proprio su questo aspetto, Pietro, per conto perché di io suo credo figlio, che il datore di lavoro, il figlio, stia cercando di trovare un componimento, cioè io ti devo licenziare perché ho questo problema organizzativo, una richiesta di dimissioni volontarie da far firmare, oppure ti offro magari un piccolo incentivo se tu mi firmi invece l'accettazione del licenziamento o di una risoluzione del rapporto di lavoro. Sono delle fattispecie ben diverse. Certo, allora Pietro sostiene che in questo caso il licenziamento sta avvenendo perché c'è necessità di fare riduzione del personale, evidentemente tutte le motivazioni. C'era anche un altro ascoltatore che chiedeva lavoro come da 11 anni responsabile di un negozio appartenente ad un'impresa storica italiana. Tutte le volte che provo a chiedere un aumento mi viene detto di non chiedere tanto, perché hanno intenzione di chiudere il negozio, ma questa storia va avanti ormai da anni, il negozio è apertissimo. Questa è Margherita che ce lo scrive: se veramente volessero chiudere, nonostante lavori bene, come funziona per me il licenziamento? Beh, certo, il negozio che chiude è palesemente una situazione di difficoltà incontestabile. È un licenziamento di natura oggettiva e nel momento in cui, poi bisogna andare a verificare bene la situazione e lì si farà. Se è stata assunta prima del 7 di marzo 2015, si applicherà ancora l'articolo 18 così come modificato dalla Fornero, per cui avrà diritto a un preavviso, e poi se dovesse contestare la legittimità del licenziamento avrà diritto, se dovesse mai vincere la causa, a un'indennità fra le 12 e le 24 mensilità. È molto difficile che nei casi di licenziamento per riorganizzazione o per giustificato motivo oggettivo si riesca effettivamente a vincere una causa di questo genere, perché la chiusura del negozio è un fatto oggettivo. Se invece per mille ragioni la chiusura viene dichiarata, poi invece è posticipata, poi viene assunto qualcun altro, allora lì si apre un altro scenario. È quello di cui si occupano gli avvocati specializzati in diritto del lavoro, come l'avvocato Francesco Rotondi, che ringraziamo per essere stato con noi. Grazie a voi. Buon lavoro, è il caso proprio di dirlo, utilizziamo il termine giusto. Noi adesso abbiamo velocemente la borsa e poi torniamo, parleremo di sindrome metabolica, di un bellissimo progetto che ci descriverà il dottor Franco Berrino, che sta entrando nei nostri studi. A tra poco. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Cuore e Denari. E ritorniamo insieme, così dalle controversie di lavoro passiamo a quelle di salute, perché la sana e robusta Costituzione è diventata un elemento centrale anche nella corsa alle presidenziali americane. In questi giorni l'avete letto, c'è stata una botte risposta tra Hillary Clinton e Donald Trump sulla loro condizione di salute. La signora Clinton ha diffuso una lettera del suo medico che la giudica pronta a servire il paese dopo la polmonite, mentre il signor Trump è stato ospite dello show del Dr. Oz, un programma televisivo quotidiano americano in cui si discute di questioni mediche di salute. Deborah, piace anche a te? Moltissimo. È un po' la versione americana di Cuore Denari. Hanno copiato anche là. Sentiamo un estratto. I know you're on Lipitor or I take a statin. Eccolo qua, insomma, il magnate americano ha detto di prendere le statine per tenere sotto controllo il colesterolo, che ha la pressione elevata, che ha un indice di massa corporea che lo fa rientrare tra le persone in sovrappeso, tanto che si è ripromesso di perdere qualche chilo, ma nel complesso dice che si sente forte, gagliardo, no? Come si direbbe a Roma, forse. I valori invece della signora Hillary Clinton, secondo quanto detto dal suo medico, che è Elisa Bardak, sono per la pressione 70 alla minima, 100 alla massima, colesterolo viaggia 189, trigliceridi invece 159. E noi partiamo da qui, dai numeri. Quindi andate a prendere i vostri ultimi esami, diteci i vostri valori, a quanto viaggia il vostro colesterolo, la vostra pressione, senza dimenticare ovviamente i numeri del girovita e, se volete, aggiungiamo anche quelli dei trigliceridi. Insomma, in due parole parliamo di sindrome metabolica. Qui in studio l'abbiamo già annunciato, un gradito ritorno per noi e anche per i nostri ascoltatori. Abbiamo il dottor Franco Berrino, professore del Dipartimento di Medicina Preventiva e Predittiva dell'Istituto Nazionale dei Tumori. Bentornato, professore. Grazie. Eccolo qua, abbiamo anche fatto un sacco di foto. Allora, quando possiamo parlare con certezza di sindrome metabolica? Ci fa una definizione? Perché ne sentiamo sempre parlare, poi parleremo di un progetto che voglio descrivere proprio bene ai nostri ascoltatori. Grazie. Professore. Ma è una definizione molto arbitraria, se volete, no? Che è stata inventata dai diabetologi negli anni 70 del secolo scorso, perché avevano notato che chi aveva la pancia, chi aveva la pressione alta, chi aveva il colesterolo buono un po' basso, chi aveva i trigliceridi alti, chi aveva la glicemia un po' alta, si ammalava di più di diabete e si ammalava di più anche di infarto. E i valori sono allora, no? Avere la glicemia superiore a 100, avere i trigliceridi superiori a 150, avere il colesterolo buono sotto il valore di 50 e avere la pressione sopra 85-130 e la circonferenza vita. Lì ci sono stati fatti un po' di cambiamenti, sì, sulla cosa, ma adesso ci dice le donne è bene che stiano sotto gli 80 e gli uomini che stiano sotto i 100. Il che naturalmente dipende molto dalla struttura di una persona, poi se c'è una struttura bella, magra, così, ma molto di costituzione molto grande, che ha la circonferenza vita ne passiamo grande, qualche centimetro in più, insomma, non tutti problema. Possono avere però la vita da Vespa come noi. C'è questa Berrino. Formula arbitraria, sì. Ma oggi noi sappiamo che chi ha la sindrome metabolica si ammala di più non solo di diabete di cuore, ma si ammala di più di cancro, si ammala di più di Alzheimer, si ammala di più di altre malattie croniche, si ammala di più di fegato grasso, no? Per cui gran parte delle malattie croniche che affliggono l'umanità ricca di oggi e anche sempre più quella povera dipendono dalla sindrome metabolica. E una persona su quattro in Italia, un adulto su quattro in Italia. A lei basta un'occhiata per capire se una persona soffre, spesso, basta, sì, la forma. Spesso sì. Ci sono delle persone che sono grasse e che hanno tutti i parametri metabolici giusti, no? Sì. Però in genere, no? Chi ha la pancia, l'importante è la pancia proprio, sì. Non è tanto essere grassi, ma è avere la pancia. Quindi, anche i magri con bravo, la pancia. Magro con la pancia. I magri con la pancia hanno una mortalità elevatissima. Allora, e proprio alla sindrome metabolica è dedicato il progetto MEMEME, che sta per sindrome metabolica, dieta mediterranea e metformina, che è un progetto rivolto, attenzione, a uomini e donne. È rivolto a uomini e donne che abbiano compiuto i 55 anni. Sì. E dai 55 fino agli 80 anni, e che si fa all'Istituto dei Tumori di Milano, e che il nostro scopo è quello di fare in modo che queste persone non si ammalino e che la sindrome metabolica regredisca. E sappiamo che si può far regredire la sindrome metabolica con la dieta mediterranea tradizionale. Esperimenti già fatti sull'uomo dimostrano che può regredire. Quindi, tornando ai nostri due, al signor Trump e alla signora Clinton, li chiamiamo o tutte e due per nome o tutte e due per cognome per non fare cosa, potrebbero iscriversi se fossero qua vicino, potrebbe arruolarli. Il signor Trump sicuramente, la signora Clinton no, la signora Clinton no, certamente non ha la sindrome metabolica. E il signor Trump invece corre, perché guardate, anche se la definizione vale, anche se la tua pressione è normale, perché prendi farmaci, se il tuo colesterolo è normale, perché prendi farmaci, se i tuoi trigliceridi normali, no? Quindi nella definizione entra anche questo, cioè hai la sindrome metabolica anche se prendi i farmaci per la pressione. Certo, e i farmaci ti tengono sotto controllo la pressione o il colesterolo, e quindi si potrebbero iscrivere a questo progetto. Si potrebbero iscrivere a questo Ma progetto. Ma concretamente, all'ascolto abbiamo una signora che non abita, un signore che non abita a Milano, ma si ritrova descritto nel profilo che lei ha così, no, con precisione effettuato. Che cosa deve fare? Magari non abita a Milano. Come allora, si fa a seguire questo progetto e sostanzialmente che cosa fate? Come fate a mettervi in contatto? L'impegno è modesto, nel senso che occorre venire da noi una volta al mese. All'inizio, proprio quando ci reclutano le persone, due volte però, per cui anche chi non abita a Milano, ma che non abita tanto lontano, può benissimo partecipare al progetto. Sì. Chi abita molto lontano diventa un impegno molto grosso, insomma, naturalmente. Certo. Si tratta di, allora, per informazioni si può andare sul sito dell'Istituto dei Tumori di Milano, cercare il progetto MMME, oppure telefonare, per chi è interessato, telefonare al numero dell'istituto del progetto che allora adesso vi diamo. E mettiamo anche su Cuore Denari. Sì, è lo 02 23 90, 23 90 è il centralino dell'istituto, 02 23 90 3573. 3573. 3573, okay. Quindi... E magari... Ha avuto un attimo di incertezza, non è che ha dato il numero di casa sua, perché un attimo noi siamo è la settimana della salute mentale, quindi abbiamo parlato all'inizio. Certo, si dimenticano un po' le cose, effettivamente. Però comunque il numero lo mettiamo anche sulla nostra pagina se vi fosse sfuggito. Quindi vengo nel da caso mi fossi sbagliato, c'è anche un altro numero, che è sempre 2390 2868, numero di riserva. Okay. Adesso se telefonate troverete magari il 3573 occupato, perché c'è un po' di gente che telefona, potete telefonare al 2868. Allora si fa una visita, noi facciamo un esame del sangue per essere sicuri che le persone abbiano effettivamente la sindrome metabolica, e poi facciamo un incontro in cui spieghiamo in che cosa consiste il progetto, naturalmente, perché in questo progetto si usa anche, metà delle persone che partecipano useranno anche un farmaco. Sì. Un farmaco che è un vecchissimo farmaco che si usa per la cura del diabete, un farmaco molto tranquillo, si chiama metformina, e che si è dimostrato, recentemente si è capito il meccanismo d'azione della metformina, e si è visto che i diabetici che sono curati con la metformina si ammalano molto meno di cancro, per esempio. Quindi ha una sorta di ruolo protettivo. Un ruolo protettivo, sì. È perché questo farmaco attiva gli stessi geni che sono attivati dal mangiar poco. Sapete, uno dei grossi problemi oggi è che mangiamo troppo. Mm-hmm. No? Anche i magri mangiano troppo. E noi sappiamo invece che mangiando un po' meno si vive di più, ci si ammala meno di cancro, di altre malattie. Proprio... Da 100 anni sappiamo, proprio per gli studi sugli animali, che se diamo un po' meno da mangiare agli animali, questi vivono di più. E la pancia un po' vuota fa stare meglio. Insomma. La pancia un po' vuota fa stare meglio. Si lamenta, vengono del... No? Si lamenta, però alla fine... L'ideale per chi può, perché chi ha un'organizzazione di vita che lo permette, è di mangiare molto poco a cena. Invece purtroppo oggi è il contrario. È il contrario, la gente giustamente mangia fuori a mezzogiorno, la cena in famiglia si fa la sera, per cui invece no, bisogna tenersi è molto bene tenersi leggeri la sera. Ma anzi, addirittura saltare la cena spesso è una cosa che sarebbe utilissima. Si faceva una volta, no? Si faceva, un po' per castigo ai bambini, vai a letto senza letto cena, un po' per, no, per abitudine, ma i vecchi ma lei, ad esempio, i vecchi ieri sera, dottor Berrino, Torino, prima che così poi andiamo a sentire le informazioni sul traffico. Che cosa ha mangiato lei ieri sera? Ieri sera non ho mangiato. Ieri sera non ho mangiato, ma anche perché avevo mangiato molto male durante la giornata. Ero in viaggio, avevo mangiato un po' di porcherie, avevo mangiato il cioccolato, avevo mangiato il caffè, no? Tutte queste cose qua. E allora ero un po' così, non mi sentivo tanto bene. Ieri sera sono andata a letto senza cena ed è stata una cosa meravigliosa. Io però il caffè lo prendo, il cioccolato lo mangio. Sono preoccupata se lei dopo aver mangiato caffè e cioccolato salta la cena. Io le mangio tutte, io le bevo tutti i giorni, ne mangio tutti i giorni, quello amaro. Poi sono metà piemontese, metà siciliana. Andiamo a sentire che cosa ci dicono le informazioni sul traffico. Ritorniamo subito dopo con i vostri numeri e soprattutto coi consigli del professor Berrino per il vostro caso. A tra poco. Cuore e denari. Ed ecco che siamo ritornati insieme qui in studio con noi il professor Franco Berrino. Stiamo parlando di un progetto che invita le persone che hanno compiuto i 55 anni, che per una serie di condizioni hanno una diagnosi di sindrome metabolica o stanno prendendo dei farmaci per tenere sotto controllo il colesterolo, la pressione, la glicemia, di partecipare a questo progetto che attraverso la dieta mediterranea e in una parte del gruppo l'assunzione di metformina ha proprio l'obiettivo di far regredire la sindrome metabolica, che come il professore ci ha spiegato è alla base, può essere un fattore di rischio molto importante per una serie di malattie tumore che vogliamo prevenire. Queste malattie. Ci ha parlato della metformina e ce ne ha descritto gli effetti e quindi mimano un po', no? Il digiuno, dà questo segnale al nostro organismo. Ma mi chiedo, allora perché non darla a tutti? Non viene prescritta a tutte le persone che hanno magari non proprio una diagnosi di sindrome metabolica, perché ci vogliono alcuni parametri, ma in generale presentano dei fattori di rischio. Ma allora, prima di prescrivere a tutti, bisogna fare degli studi per dimostrare che sia effettivamente efficace. Sì. No? E questo è lo scopo di questo studio. Per cui, con i risultati di questo studio, si potrà... Purtroppo è un farmaco che non interessa a nessuno, perché è un farmaco che costa pochissimo. Vedi, cuore denari, Deborah. Bisogna, allora, per essere interessanti, bisogna costare anche. Le case farmaceutiche... Questo è vero anche nel lavoro. Non hanno nessun interesse ad aiutarci in questo studio, per esempio, perché la metformina non rende oggi. Sono molto interessati a studiare delle modifiche della molecola della metformina per vedere qualche cosa che funzioni altrettanto di più da poter brevettare, perché allora si può vendere. Senta, diciamo che naturalmente la partecipazione è assolutamente gratuita. La partecipazione è gratuita, non solo, ma invitiamo anche il coniuge delle persone, no? Perché si vengono a mangiare da noi assieme quando facciamo questi pranzi in comune, facciamo i corsi di cucina per queste persone, e che sono sempre molto molto gradevoli, molto divertenti. Hanno un grande successo. È un momento di festa in fondo, no? In cui si partecipa. Allora, le telefonate dei nostri ascoltatori. Vincenzo da Modena, buongiorno, poi andiamo Simone d'Ancona, e così vi prenoto già, però voglio leggere anche un WhatsApp che ci arriva da Roberto. Scusate, io lavoro e faccio attività sportiva 5 giorni alla settimana, come faccio a mangiare poco? Non ho energia. Fare attività sportiva previene la sindrome metabolica, quindi vada pure tranquillo e mangi quello che, mangi le cose buone, non esageri con le porcherie industriali, ma mangi quanto ha fame, non si preoccupi. Perché qua selezionano sempre i messaggi, no? Il dottor Berrino ha detto che non ha mangiato l'altra sera, perché lui è anche ormai abituato, no? E subito passa il messaggio che non si debba mangiare. No, ma qua, cioè, non sono proprio questi messaggi. No, Nicoletta, mi spiace, ma devo veramente... Per chi fa attività fisica va benissimo, che mangi pure bene. Altro che... Allora, andiamo a Vincenzo. Buongiorno, da Modena. A Modena, tra l'altro, si mangia benissimo. Vincenzo, buongiorno. Buongiorno a voi, buongiorno a tutti. Andiamo allora. Esponevo una domanda e un problema. Cioè, io pesavo un bel po' e sono andato anche a un centro che si trova a Piancavallo, dove ho ottenuto degli ottimi risultati nel 2010. Avevo perso 30 kg. Sì. Però poi pian pianino mi sono lasciato, diciamo, andare e ho ricominciato a mangiare tanto. Oggi mi ritrovo più o meno allo stesso punto di partenza. Usavo la metformina, avevo il diabete, la pressione, oggi vado a capo all'ipertensione, il diabete. E quindi ha recuperato quello che ha perso. Vincenzo, esatto. Quanto il problema? Perché voglio dare spazio anche a Simone. No, la domanda era questa, perché qualcuno mi ha parlato anche delle anfetamine che una volta si prendevano per dimagrire. Per carità, ecco. Non faccia questa stupidaggine. Guardi, adesso lei non può partecipare al progetto, naturalmente, perché chi ha già il diabete, chi ha già avuto un cancro, non lo vogliamo, perché vogliamo prevenire queste malattie. Però quello che lei deve cercare di fare, visto che ha comunque un impulso a mangiare tanto, è di evitare le cose che più fanno ingrassare, che sono le patatine, le patate, i salumi, le carni rosse, le bevande zuccherate, i dolciumi di pasticceria, mentre invece quello che aiuta a non ingrassare sono i cereali integrali, i legumi, le verdure, la frutta, la frutta oleaginosa, noci, nocciole, mandorle, quelle vanno bene, eh? Sono grassi buoni che aiutano il nostro metabolismo. Lei modifichi la sua alimentazione mangiando dei cibi integrali a bassa densità calorica. Mangi la pasta e fagioli, non mangi il pane bianco. Il pane bianco fa aumentare molto la glicemia e fa ingrassare. La pasta no, la nostra buona pasta di grano duro italiana, no, e mangi i legumi. Simone da Ancona, Simone stringatissimo perché abbiamo 2 minuti, uno per lei, uno per il professore, vada. Allora, salve, buongiorno, niente, io ho 40 anni, 57 kg di peso, un 10% di massa grassa. Perfetto. Faccio bici da strada, il mio problema qual è? Che mangio tantissimo, anche troppo rispetto a quello che diciamo il mio fisico ha bisogno, e sono schiavo degli zuccheri. Di testa non riesco a Ancona una richiesta d'aiuto. Professor Berrino, ce la fa in un minuto? No, sì, un minuto sì, e sì. Mezzo. Ma guardi, effettivamente anche per avere un buon rendimento fisico non va bene lo zucchero, va bene la pasta asciutta, gli zuccheri sotto forma di qualche cosa che ceda zucchero a lento rilascio. Quindi lei vada in questa direzione. Lei veda, se sul sito di Radio 24 troverà anche le mie ricette dei biscotti senza zucchero, per cui provi a prepararsi lei dei dolci che vadano bene per la sua intensa attività fisica. Perché possiamo fare questo passaggio gradualmente, non si riesce dall'oggi al domani, esatto. Però ogni giorno una piccola, no? un piccolo cambiamento, certo. Un piccolo passo, alla fine facciamo grandi cambiamenti. E invece ogni giorno tendenzialmente noi mettiamo su un pochettino, qualche grammo, circa mezzo chilo all'anno, e dopo 30 anni sono 15 kg in più che ci causano la sindrome metabolica. Professore, allora noi la salutiamo, la ringraziamo, diciamo ai nostri ascoltatori se vogliono ulteriori informazioni sul progetto MEMEME, quindi 55 anni compiuti, sindrome metabolica, uomini e donne, di andare sulle pagine di Cuore Denari, e naturalmente mettiamo il link all'Istituto Nazionale dei Tumori. Perfetto. Ci sono anche i video del professor Berrino, quindi andateveli a vedere, e noi ci sentiamo prestissimo, professore. Benissimo. Buona giornata a tutti, noi invece ritorniamo qua domani puntuali alle 10:30. Belle come il sole. Buona giornata a tutti.